America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, arriva il G8 a metà di questa settimana, il G20 alla fine della settimana e la Cina ha già rubato la scena. Ha annunciato, come molti di voi avranno già ascoltato, lo sganciamento dello yuan dal dollaro e il passaggio a un sistema gestito in cui il rapporto valutario sarà controllato ma diretto al rialzo. Allora, in generale le reazioni sono state molto positive, la svolta c'è stata, il passaggio c'è stato, ma da ieri sappiamo per una nuova dichiarazione della banca centrale cinese che l'aumento sarà molto graduale, questo per non creare eccessivi scompensi all'interno dell'economia del paese. Beh, la mia impressione era che per dare un segnale forte la Cina avrebbe dovuto agevolare un aumento, diciamo, del 2% prima, almeno prima del G20 di domenica prossima. In questo modo si sarebbe protetta da qualunque attacco, critica che magari la sua decisione era solo una decisione di facciata e non di sostanza. Però il sottolineare, come è successo ieri, che l'aumento sarà graduale, indipendentemente poi da quello che succederà oggi, perché la prima giornata poi avrà un significato semmai parziale, significa, dicevo, questa dichiarazione che probabilmente non si parlerà, almeno così dicono gli esperti, più di un 3% di apprezzamento entro la fine dell'anno. Beh, ecco, di nuovo avrei detto che si sarebbe dovuto avere un 3-7% entro il G20 della Corea del Sud, che si terrà in novembre, di nuovo per dare un segnale piuttosto concreto. Però, al di là di quello che succederà, un fatto importante è certo: la Cina ha cambiato strada, è pronta ad appoggiarsi meno sul tasso di crescita. C'è un passaggio, voglio dire, anche di tipo strutturale, non soltanto valutario, perché dietro questa decisione appunto c'è l'idea di appoggiarsi meno per crescere e per accomodare la crescita al galoppo, questa crescita straordinaria cinese, sulle esportazioni e molto di più, sempre nel tempo ovviamente, sulla domanda interna e su importazioni. E un altro elemento politico che emerge da questa cosa, di nuovo la gente si domanda, ma insomma cosa c'è dietro questa manovra, come mai questo duetto? Ricordate la lettera di Barack Obama della settimana scorsa, in cui in qualche modo incoraggiava la Cina a fare qualcosa? Beh, quello che abbiamo è un esempio di G2, di gestione dell'agenda multilaterale fra Washington e Pechino. La cogestione forse comincia a dare qualche risultato. Ecco, in tutto questo l'Europa che fa? Beh, insomma, l'Europa resta indietro sotto la tutela statica, sottolineiamolo, del cancelliere tedesco Angela Merkel, che è arroccata su politiche restrittive quando il mondo ha bisogno di rafforzare la crescita e di introdurre cambiamenti rapidi. 2009年的崭新岁月. Ecco, torniamo alle motivazioni cinesi. Scusate, mi soffermo un po' su questo, ma è davvero una svolta piuttosto importante sul piano politico, oltre che su quello economico. Beh, cosa significa questa decisione cinese? Significa anche che Pechino vuole confermare di voler accrescere la sua statura nel contesto dell'ordine multilaterale. Pechino conta sempre di più, vuole intervenire sempre di più, è pronta a una gestione con Washington e semmai con Mosca. Sottolineo, l'Europa resta fuori da questi giochi ed era da tempo ormai che in materia di cambi all'interno della Cina vi era uno scontro fra due fazioni ai vertici del paese. Da una parte economisti illuminati appoggiati dalla banca centrale, che erano favorevoli a una maggiore flessibilità, un cambiamento anche per contenere il rischio di pressioni inflazionistiche, per rilanciare la domanda interna, per compensare l'eccessivo peso delle esportazioni, come vi dicevo prima. Ecco, questa fazione ha acquisito peso dopo che c'è stata la fortissima polemica che avrete seguito con il gruppo Qualcomm, fornitore degli iPad alla Apple, che per rispondere a una serie di suicidi interni all'azienda ha deciso di aumentare di molto gli stipendi. La conclusione: il rischio immagine per un grande produttore cinese come Qualcomm, 400.000 dipendenti, era più importante della competitività. I politici invece, da vecchi saggi, ovviamente resistevano. Ecco, dalla Cina passiamo a Barack Obama, perché un ritorno ovviamente c'è anche per l'immagine del presidente americano. Non solo ha ottenuto queste concessioni dalla Cina, decisamente importanti, non solo in qualche modo ha maggiore credibilità nel momento in cui cerca di esercitare pressioni sull'Europa, che resiste, l'Europa di Merkel, torno a dire, ma ieri ha avuto Obama anche delle concessioni importanti da Israele su Gaza. Gerusalemme accetterà che il blocco navale sia meno rigido, soprattutto quando si tratterà di portare su Gaza, sulla striscia di Gaza, derrate alimentari e prodotti farmaceutici. Resterà in vigore il blocco navale per armamenti e per materiale che possano servire alla costruzione di armamenti. Ma Barack Obama ha avuto successo anche sulla BP, sul fronte ambientale, e dunque l'ambiente sarà uno degli argomenti centrali del G8 e poi del G20. Ne approfitterà il presidente per così restituire spazio alla questione ambientale nel senso più lato, soprattutto dopo così la chiusura ambigua, alcuni dicono il fallimento, del vertice di Copenaghen. Per ciò che riguarda la BP, il povero Tony Hayward, l'amministratore delegato del gruppo British Petroleum, ormai è sempre sotto attacco. Ieri la Casa Bianca e Rahm Emanuel, il capo di gabinetto, hanno picchiato contro Hayward perché si è permesso una giornata di vacanza sul suo yacht con il figlio. La BP ha fatto un comunicato in cui ha spiegato che era la prima volta dopo mesi che Hayward riusciva ad avere un po' di tempo col figlio, ma per la Casa Bianca non era una giustificazione accettabile. Io credo qui che forse la Casa Bianca stia un po' esagerando. Devo dire, non lo credo solo io, perché ho visto che poi molti dei media americani, dei blogs, ieri hanno sottolineato che proprio mentre c'era questa critica in uscita dalla Casa Bianca, il presidente Barack Obama se la godeva giocando a golf. Altra notizia, curiosità, Michael Jackson. Siamo ormai, come dicevo già la settimana scorsa, in onore di anniversario. Ricorderete che morendo Jackson lasciò un buco finanziario non da poco. Ebbene, questo buco sembra che sia stato risanato grazie a una serie di accordi organizzati dagli eredi. Resta un problema, un problemuccio direi non da poco: un debito da 300 milioni di dollari in scadenza entro la fine dell'anno. Roba da far tremare i polsi, ma i gestori del patrimonio Jackson dicono che riusciranno a cavarsela, a rinnovarlo, e che le cose, proprio in coincidenza con l'anniversario della sua morte, saranno in trasparenza perfetta. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. La dedicherei a John Lennon. Perché? Perché ieri c'è stata un'asta in cui chi l'ha vinta si è aggiudicato un foglietto su cui c'era scritto a mano, proprio da John Lennon, la prima versione di A Day in the Life, una canzone dell'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, scritta nel 1967, prezzo 1,2 milioni di dollari, un record dunque dei Beatles, A Day in the Life. I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.